Cioè, i mezzi per fini, e gli dèi lo puniscono, facendo, e che punizione diamo? Il lavoro più stupido che si possa immaginare, portare sulle spalle il masso, arrivare in cima, farlo rotolare e riprendere. Ditemi voi, lui che aveva il mito dell'efficienza, essendo un tecnico, viene condannato a essere inefficiente. Prometeo cosa fa? Prometeo invece ha un fine buono, ma sbaglia in mezzo. Perché Prometeo vuole aiutare il fratello Epimeteo. Voi sapete la storia, cosa va a fare Epimeteo. Quindi quando va a rubare il fuoco agli dèi, Prometeo veramente lo fa per un fine buono, aiutare il fratello. Perché il fratello aveva distribuito i talenti, si era dimenticato degli uomini, aveva dato gli animali, eccetera. E quindi gli dèi puniscono Prometeo nella forma che sappiamo. Vedete, Sisifo adotta il mezzo buono, ma il fine inadeguato, o non accettabile. Prometeo invece ha il fine buono, ma adotta il mezzo sbagliato. Allora, vedete, c'è bisogno che la bontà del fine, sì, che si vuole perseguire, si riversi sulla bontà del mezzo. Questo vuol dire, in altre parole, studiare l'amore e amare lo studio, perché questo ci permette di non ricevere la condanna o il destino né di Sisifo né di Prometeo. Questo in ogni caso è l'augurio sincero che faccio a primi luoghi agli studenti che popolano e vivono in questa residenza e a tutti gli amici e colleghi che sono venuti a intervenire. Grazie ancora.